Pensavate che fossimo morti, eh? E invece vediamo un po' se riconoscete questa sigla. Sintonizzati, inizia la trasmissione. Mars e Vintro, Radio Wombat in onda per la lezione sulla doppia selezione di tracce bomba da collezione. In missione notturna come un pescatore. Tu cerca altrove se vuoi musica di merda. Se vuoi il contrario, schiaccia play e segui la diretta. Ti culla da stanco, una spinta se vai di fretta. Imposta sessioni notturne sulla giusta frequenza. Vieni Marione, spara più in chiave. La bianca. Bianca. Sulla giusta. Vai, vai, vai. Ah no, sbagliato. Aprite la cazzo di porta. Ah, la porta. È perché volevo fare la doppia. Sulla culla. Sulla culla. Sulla. Mo apri. Ma quella no. Non è quello blu. Buon pomeriggio, Mars e Vintro, sono tornati finalmente su Radio Wombat dopo una lunga, lunga pausa dovuta a malattie, viaggi e aspetta, cose simili. Aspetta, abbiamo già problemi. Oddio. E sono tornati e si fanno sentire da questo punto ciao. Di vista fra l'altro. Ciao, altissimo, ciao, ciao, ciao, ok, ciao, boh, ciao. Ciao. No, dillo meglio. Ciao. Di nuovo? Ciao. Ciao, ciao. Ciao! Possiamo continuare così per tutta la puntata, volendo. Ma capito, ma siamo partiti già con i problemi audio, cioè siamo partiti che tipo, boh, appena... Il microfono era a palla appena partiti, comunque. Aspetta. A palla. Carino! E come sempre ci facciamo accompagnare da un dolce beat sì, di sì, sottofondo. Diciamo dopo di sì, sì, lo diciamo dopo di chi è. Allora. Bentornati, oggi splende il sole e come si deve tornano i vecchi ricordi e quindi siamo tornati. Perché? E poi in realtà abbiamo saltato due settimane, non è che siamo fuori perché da due mesi. Siamo fuori da due infatti, anni. Infatti, non sto un po' esagerando, è che mi siete mancati molto. Certo, in realtà, aspetta, ma spiega perché siamo stati fuori. Di la verità. Che per malattie... Allora, praticamente siamo stati chiamati in un universo alternativo. Giusto. Giusto, giusto, sì, sì. Perché lì le nostre controparti erano morte. E dovevamo tenere il programma sì. In radio nell'altra dimensione. Abbiamo preso una navicella spaziale che viaggia attraverso lo spazio-tempo e siamo finiti in una dimensione parallela. E... spaziale. Devi darti qualcosa di più carino, un motorino spaziale. No? Una cuffia spaziale. Un microfono spaziale. Tutte queste cose spaziali, insomma. Però poi abbiamo deciso che la nostra vecchia casa ci mancava e la nostra vecchia Radio Wombat aveva bisogno di noi. No, questo non è vero, però ci faceva piacere a noi tornare. Bene, tornate da noi, nessuno mette i pop. E per farcela prendere male dopo tutta questa presa bene, abbiamo deciso di impostare il tema di questa puntata sulla tristezza. Sì, tristezza, malinconia, che in realtà sono anche pezzi d'amore tristi. Però i pezzi d'amore sono sempre tristi. No, tendenzialmente. Quasi sempre. 90%. Più che altro avevamo preparato questa puntata due settimane fa e poi non l'abbiamo fatta. Esatto, esatto. Ma poi avevamo preannunciato comunque che ci sarebbe stata una puntata sui pezzi tristi e sul mood della tristezza. Per la mia gioia o per la mia tristezza? Vedremo. Allora, passiamo subito al primo pezzo. Oggi tanta musica e poche parole, probabilmente, a parte questa lunghissima introduzione. Qua. Ok. Allora, no, vuoi introdurre il pezzo oppure no? Allora, abbiamo deciso di okay. Di passare come primo pezzo un pezzo di Claver Gold che si intitola Il meglio di me featuring Rancore. Ora sta a voi decidere quanto è triste questo pezzo. Sì. Io l'ho sentito. Tu hai sentito? Te che dici? Vado. West, Rancore, Claver Gold. Ritorno in ballo la mia malattia, bella mia, il vento ci ha spazzato via. Noi che scappavamo lungo strade di periferia. Chiama la canzone oppure storia, chiama la poesia. Perdo fiato a 100 bpm di tachicardia. Attacchi di panico, malinconia. Tiro giù le tapparelle, metto al minimo la suoneria. Danzo sopra un ago, crisi d'agorafobia. Per guardarmi veramente dentro servirebbe un'autopsia. Mamma, cambia la trama. Ricoprimi di nuovo sotto frasi di lana. Il freddo entrava in casa come sbirri in borghese. Le mie mani erano tese verso la tua sottana. Alle 7 del mattino sbocco il vino delle 20 accuso pugnalate. Puttana fermate, serenate, serenate. Io non mi sentivo più a mio agio ed arrivò l'estate. Ora che la vita ci ha tradito, dimmi come state. Ora che la vita ci ha tradito, dimmi come state. Ora che la vita ci ha tradito, dimmi come posso fare a dare il meglio di me. Sono rimasto solo in casa a domandarmi perché. Siamo arrivati sopra il cielo, il paradiso dov'è? Il suo sorriso non c'è, il paradiso dov'è? E dimmi come posso fare a dare il meglio di me. Sono rimasto solo in casa a domandarmi perché. Sono tornato nell'inferno per sapere com'è la vita senza di te. Lo vuoi sapere com'è? A volte penso dovrei dare solo il peggio di me, ma qui peggio di così non c'è più un cazzo di niente. Ci siamo già mandati a fare in culo ognuno per sé. In verità ero già sboccato, sì, ma ora che ho sbroccato totalmente. Vorrei dare meno impegno, celebrale nei testi, essere il primo a dire che gli sta sul cazzo chi fa il saggio, dando più spazio a qualche parolaccia in questi versi. Avremo l'illusione poi di esprimere meglio il disagio, parlare come a vuoto. Questa lingua ormai è una vipera, ma ti incontrassi in giro, giuro, in gola avrei un nodo. Dirtelo con una foto, piangere nel condividerla, perché non condivido neanche il farsi le foto. E nulla porta nostalgia più dei luoghi, di un ricordo che ti parla, ogni fotogramma sembra un déjà vu. E nulla porta ipocrisia più della poesia, che appena dici di farla, già non la stai facendo più. Io non vedo che la pista è facile, la guardo, c'è una gara intensa ed una fretta che imperversa, e nella corsa che i pensieri fanno verso il traguardo, non c'è niente da fare, resti sempre in testa. Dimmi come posso fare a dare il meglio di me. Sono rimasto solo in casa a domandarmi perché. Siamo arrivati sopra il cielo, il paradiso dov'è? Il suo sorriso non c'è, il paradiso dov'è? E dimmi come posso fare a dare il meglio di me. Sono rimasto solo in casa a domandarmi perché. Sono tornato nell'inferno per sapere com'è la vita senza di te. Lo vuoi sapere com'è? Bellissimo modo di ricominciare questa avventura insieme. Coinvolgente, non stanca. Cos'altro posso fare per fare la vendita di questo brano? Stavo regolando i volumi, scusate. Alla grande. Eh sì, che hai cominciato a parlare a voce più bassa del solito, ho dovuto alzarti. Cioè, che cose strane. Allora, questa era una bella botta di tristezza, penso, almeno per me, cioè, bella malinconica, bella botta sta canzone. Travolgente, ecco. Travolgente, sì. Ecco, questo era Il meglio di me, di Claver con Rancore, del disco Requiem del 2017. Discone intero, bellissimo. Discone intero, anche se io preferisco i pezzi con i featuring, cioè c'è l'Orbin tra i featuring, sì, capite? Sì, no, è vero. Allora, addio, ho alzato troppo il mio, mamma mia che palle. Allora, posso dire che palle in radio? Ma per me sì. Allora, Claver, classe 86, di Ascoli Piceno, ultimo di 5 fratelli, guarda quanto gossip che cacciamo ora. ha cominciato dal 2007, quando era a Bologna, con Battle di Freestyle, palchi nei centri sociali, tecniche perfette. Ha sempre fatto musica, è sempre menato in mezzo sul palco. Ha partecipato a un talent per cantautori a Genova con il singolo Cyborg, che avrete sentito in Mister Nessuno. Poi Tarassaco Piscialletto e Patate e Cipolle sono, cioè, sono titoli bellissimi per il disco. Non so che dire. Già, beh, lo conoscete Claver. Ora nel 2017, ma non l'avevamo mai passato noi, lui. Passato. Volevamo passarlo nella prima puntata, però il disco è uscito a fine 2017, quindi non rientrava nel 2018. Nel 2017 infatti è uscito Requiem, il disco di cui vi abbiamo fatto sentire il pezzo. Scusate, devo riprendere a parlare. Come featuring troviamo i Green, Gammon, Murubutu, Rancore, il già detto L'Orbin. Ed è un disco che a me è piaciuto tanto, tanto, tanto. E oltretutto è uscito un paio di giorni fa, è uscito il disco nuovo di Claver. Ha fatto un EP con Kintsugi, non so come si dice. Un bel EP, molto bello, molto triste anche quello. Si chiama Il Lupo di Hokkaido. Andatevelo a sentire, che è molto triste pure quello. Oggi sponsorizziamo pezzi tristi oggi. Sì, sì, è Mars che ha scelto questa tristezza che lo... Sono belli i pezzi tristi. Sono belli, sì. Ecco, adesso Adesso arriva un altro po' di tristezza. Sì, oggi puntata pesante. Pesante ma bella, eh. Ascoltatela a dosi, piccole dosi. A piccole dosi. A piccole dosi. A piccole dosi. Adesso tocca allo zio Necro. Ma no, dov'è? Sono da Peppa. Vabbè, raga, allora adesso tocca al Necro. Intanto diciamo questa cosa qui. Adesso tocca a Necro. Sarà un bellissimo ritorno in scena. Adesso passiamo a Poetry in the Streets di Necro. Un attimo che regola di nuovo i volumi. Poetry in the Streets di Necro dal disco Gory Days del 2001. Raga, sto pezzo c'ha un beat con un sample pazzesco. Che quando faremo la puntata sul sampling, mm-hmm, vi faremo sentire il sample originale che l'ho trovato. Insegnatevelo perché lo riporteremo in auge. Oggi qualcuno è un po' stanco. Non riesco a controllare il volume della mia voce, Mars. Va bene. Il microfono e parlo sottovoce. Magari sembro te. Adesso passiamo Necro, ok? Ciao. Idiota sei. Peace the killer shit. That murder rap shit. Bitch. Check it. The press runs the tape, record the bloody mess. Documentation so the human race can study death. They'll reach you through your TV speaker. They'll feature a creature that will beat you to death if he can meet ya. You're executed when you're electrocuted. Who's responsible for a homeless man that's dead and smells putrid? We're murdered, your natural flesh. After being thrown in a river, will be frozen forever into a statue of death. A grasshopper in the lab, dead, stabbed in the head. Knives are like the hands of a crab, jabbing your flaps in your abdomen bled. Throw you off a building, killing off your children. Drilling holes in your corpse till you're spilling the color vermilion. We'll split your brain, so slit your vein. The impact of a bat cracked across your back is like getting hit by a train. I'll stick a fang in your blood bank, then strangle my shangle mangle you like the triangle teeth of a bangle. I think my shit's too brutal for most. I might be the only one capable of digesting the dose. You won't survive a screwdriver driven inside your throat. Choke on blood and saliva with another conniver croak. There's poetry in the streets of the Big Apple, and a vitality found in few other places. Pull up beneath the surface of the city, and you shall uncover a seething cesspool of human emotions. Gone sour, a planet where nightmares have become reality. Witness to brutality. There's poetry in the streets of the Big Apple. You get tackled and grappled to the floor, white slaved off and shackled. I spit on your grave, piss in your mouth and shit on your face. Grind you in the slot meat and serve it to your friends. Removing bad taste, another brutal shooting rampage. Turning humans to ashtrays, groupies to crack slaves. With boobies to lactate, squirting mad milk. I never have guilt, I have krill. I have you fags killed in front of your mom and dad's grill. Splatter both of them with pieces of your exploding head. Brain fragments to stain and clothing red. I make you love the pain, it hurts. We make music for drug addicts, pieces of shit that love the dirt. It's psychological, I'm like having a rifle shot at you. We not the type to smile at you, we the type to body you. Slit your throat with the broken bottle. Pieces of jagged glass stabbing you through your fucking eyeballs. Have you smiling with cyanide and screaming die, horse. Watch it kill your physical first, next your mind's lost. Leave you in the funeral home, you make a fine corpse. Got you splattered across the walls with my nine talks. Murder you execution style like a crime boss. Travel through time and terminate you like a cyborg. My mentality's grindcore. Poetry in the streets of the Big Apple, and a vitality found in few other places. Pulled up beneath the surface of the city, and you shall uncover a seething cesspool of human emotions. Gone sour, a planet where nightmares have become reality. Witness to brutality. There's poetry in the streets of the Big Apple. You get tackled and grappled to the floor, white slaved off and shackled. Esatto, queste quattro battute in loop che richiamano questa malinconia, questa speranza, tutte queste cose ci ricordavano qualcosa di molto triste e molto malinconico, e quindi abbiamo deciso di metterlo. Chi è Necro? Necro non è altro che il dignitosissimo fratello minore del nostro amato il Bill, di cui abbiamo lungamente parlato, ma oltre a essere il fratello minore di Il Bill è anche il re di quello che si chiama death rap. Quindi insomma, un nome, una certezza. Infatti ha tantissime influenze di death metal nei suoi pezzi e ha influenzato un sacco di artisti, gruppi hip hop, perché appunto c'ha tutte queste influenze rock metal, non in questo caso in particolare, però in generale sì. Del 76 il nostro Ron Raphael Brownstein, di nome natale, ecco. Brownstein. E non è soltanto un rapper, bensì anche un produttore, un discografico, un attore e un regista. Quindi un factotum, sì, della, sì, ma adesso scena. Parliamo della sua carriera d'attore e regista. Ma no, voglio parlarne, aspetta, devo regolare bene il microfono. Ok, ok. Allora, praticamente sì, è un regista, un attore, ok, però ha dei film pornografici. Cioè, la verità è questa, ha fatto un sacco di porno. Anni fa, quando l'ho scoperto, è stato divertente perché praticamente ero sul sito della Psychological Records, che è la casa discografica, non mi è chiaro se la fonda del Bill o Necro, vabbè, comunque la loro. No, anche la Way di Il Bill, vabbè. Comunque, Psychological, vendevano insieme alle magliette, i dischi, i cappellini, c'erano anche i porno. Che hanno fatto Il Bill e il Necro. Quindi, cosa... Uomini pieni di sorprese. Non li ho mai visti, Però sono divertente sapere, capito, questa cosa. Anche perché, cioè, in realtà molti dei video musicali di Necro ci hanno, capito, cioè... Poti. Non so come dirlo dolcemente, capito? Cioè, tanti video sono stati censurati, sia per questo, sia per cose di cui non parleremo in sede, violenze, robe, cose strane. Vabbè, sono un po' pazzolini, sono un po'... Però spaccano. Cioè, io preferisco Il Bill a Necro, Però Necro è fortissimo. Sì. Anche questo pezzo l'ha confermato. Questo pezzo è bellissimo. Preferito. Questo qua è il pezzo tutto dove si sente di meno la sua influenza metal. Esatto, così... l'ho detto, sì. È molto, molto dolce quasi. Per finire le formalità, questa appunto era Poetry in the Streets, dal disco Gory Days del 2001. Se ve lo andate a cercare, insomma, si trova esattamente lì. Dovrebbe essere il suo secondo disco solista, oltretutto, il terzo, non ricordo. Ok. Pensavamo già di partire molto male. Adesso passiamo un pezzo di un gruppo che in Italia ha fatto la storia nonostante abbia fatto un solo disco. E nonostante la gente continui a dimenticarselo. Sì, cioè, infatti, veramente clamorosa questa cosa. È sì. Un discone, questo è il disco di Chief e Soci, Il mondo che non c'è, dal 97. Vi facciamo sentire Vivrei in te, che è un pezzo d'amore. Se non l'avete sentito, godetevelo e riconoscete la sua importanza a livello storico. Ragazzi, stiamo parlando del 97 comunque. Vado. Io che vivrei per te. Che vagano per la mia stanza, su carta bianca prendono forma, ricordi colpiscono il mio spirito che più non sogna, lo sguardo fermo sulle ombre di quegli attimi, causa scompensi ritmici, ne riconosco i sintomi, dai battiti che pulsano sulle mie tempie, un soffio vitale riempio, vuoto dato da immagini spente, compiendo in me il più grosso mistero, il cui segreto è celato da un velo, e quel soffio l'ha spinto lontano da questo emisfero, tracciando un sentiero percorso da milioni di persone in cerca del vero, in coro, mille voci mi accompagnano, ristagnano, ma è unica quella che cerco quando i miei occhi si bagnano e sanguinano, ferite che più non si rimarginano, lasciando cicatrici che non si cancellano. Vivrei di te, ora che muoio per te, io vivrei. vorrei dire io per te, ora che vivrei di te, ora che muoio per te, vivrei di te, ora che muoio per te, io vivrei di io per te, ora che vivrei di te. Da allora quella voce è sempre più presente, riecheggia costantemente, miscelandosi, fondendosi successivamente col mio istinto latente, rendendosi un indispensabile sorgente. Dove infondere la mia presenza per dissolvere i castelli che il male ha già costruito sul mio credere. In questa unione sacra sprigiono tutta l'energia del primo chakra, come se l'anima fosse stata purificata, indata, verificabile. Già in quei giorni il cambiamento era visibile, ora impassibile, forse voglio l'impossibile, ma chiedo di ascoltare ancora quel sussurro irripetibile, ormai introvabile, perso nei meandri profondi di una memoria comune, troppo labile, cerco ancora dentro me, ma ne è rimasto solo l'eco e le mie labbra si coprono di un sorriso bieco. Vivrei di te, ora che muoio per te, io vivrei di muoio per te, ora che vivrei di te, io muoio per te, vivrei di te, ora che muoio per te, io vivrei di muoio per te, ora che vivrei di te, vivrei di te, far respirare. Ma il mio spirito ormai stanco cerca conforto, come una nave nella tempesta cerca riparo in un porto, per cui mi chiudo in un covo segreto, lasciando il mondo in sospeso, bloccando dietro di me la porta per il concreto. Ma ormai non vedo più nel suo riflesso, anche qui quell'immagine ha perso il suo posto, quindi annego il dolore in un mare di sensazioni, e sul fondo di questo che la ritrovo tra mille tesori di valori inestimabili, mi cingo forte a lei con dei legami indistricabili. Credimi, tutto questo non accade spesso, ma basta colmare il vuoto del mio universo. Torniamo alla realtà. Aspetta, ok. Metto questo. Stoppo questo. Che belli questi momenti di silenzio intimo in radio. Questi erano Chief e Soci. Allora, Chief e Soci, gruppo milanese formato da Chief, un rapper che avrete sentito sicuramente, spero. Da Uda, che è un rapper di origini nordafricane che ha fatto soltanto questo disco con Chief e poi non ha fatto più nulla. E DJ Enzo, che vabbè, DJ Enzo lo conosce, cioè attivo tutt'oggi se non sbaglio, no? Cioè sì, non fa tante robe, però fa robe DJ Enzo. Chief ha cominciato nel 94, ha fatto uscire il suo primo EP con DJ Zack, che anche lui è una figura molto molto... figura. Molto molto figure. Sicuramente l'avrete sentito nel disco Strade di Città degli Articolo, perché Chief ha collaborato in diversi pezzi con gli Articolo 31. Oltretutto lo conoscete perché, cioè, se avete sentito questo disco sapete che ci sta un pezzo anche con Chaos. Ha collaborato con diversi artisti nella zona d'Opa. e soprattutto in un disco della Camel Sfinezza Click, che ricorderete è stata la storica crew di Gio Cassano, c'era un pezzo con Chief e Afurà. Capito? Cioè, cosa di più? Si chiama Seven, poi ve lo passiamo quel pezzo con pezzone 7 volte 7, bubu 7, un pezzone. E poi ho collaborato anche con le Sacre Scuole, l'avrete sentito sicuramente nel pezzo in tribunale, se non sbaglio, non mi ricordo i titoli, vabbè, giro, è proprio giornata. Uda, vabbè, ve l'ho detto, è sparito. Ha fatto sto disco per boh che fine ha fatto Uda. Enzo invece ha fatto uscire diversi, ci ha fatto uscire già diversi lavori, dischi. Sì. Nel 93 il suo primo disco, cioè il suo primo disco, aveva pubblicato un disco insieme al Comitato, che è un gruppo storico italiano, dove c'erano Irene La Medica, Jed, la famiglia, Sean, roba, capito? Cioè, eccetera, eccetera, e via eccetera. Dicendo. Oppure mi sbaglio, e questi artisti in realtà erano nel disco di GIF. Non mi ricordo, probabilmente ho sbagliato a segnarmi qualcosa. A questo momento c'ho un. Sapete quando c'hai quel turbinio di dubbi in testa? Cioè, che cazzo stai facendo? Una roba del genere. Ma noi apprezziamo comunque tutte queste importantissime. Dobbiamo riprendere la parlantina radiofonica. Dobbiamo un attimo trovare una stabilità in questo tempo strano che ci distrugge, perché veramente non questa si capisce nulla. Per fortuna ci sono le gocce. Non si capisce veramente niente in questo magembre in questo strano. Magembre, magembre. Bello, mi piace come novaggio. Adesso. Ma... Oh mio Dio. Sì, volevo sparare ora, in cuffia. Ora posso... Adesso... Vabbè, cioè, anche te però. Cioè, guarda lì come... Guarda come tranquilla. Guarda come... Guarda come tranquilla. Guarda come... Stiamo giocando con i vostri timpani adesso. Sto bestemmiando contro. Vabbè, vai. Esatto, annuncia esatto. Il prossimo pezzo. Il prossimo pezzo è di un gruppo di cui non parleremo molto, perché ne abbiamo già parlato lungamente nelle scorse puntate, ma in una puntata con un argomento del genere non potevamo non passarli, perché non potevamo, oltre al fatto che ci piacciono tantissimo e piacciono anche a voi, e continueremo a passarli una puntata sì, una no, se non una sì, una sì. Ma se non vi piacciono vi cerchiamo a casa. Esatto. Le mani. Esattamente. Capito? E vi costringiamo a mettere prima il mi piace alla nostra pagina e poi vi tagliamo le mani. Quindi vai. Il pezzo si intitola What Will You Do e loro sono i Canyon Linguists, ormai conosciutissimi, e sentitevi un po' questo pezzo pieno di tristezza. E questo invece era il microfono di Marta che pompava di nuovo. E questo invece era il mio microfono che pompava di nuovo. Pompava piano, piano. Vabbè, andiamo dentro. Facciamo sentire anche un po' di musica, Marse? Ah no, divertiamoci un po' oggi, dai. Vado? Sì. What do you do? What will you do? Aspetta che dentro è figo. Voglio parlare anche del... Adesso immaginatevi al buio, in camera, stessi sul letto con le cuffie. A piangere. A pensare intensamente. A pensare molto intensamente. Adesso stacchiamo il microfono. Yeah, I told my pops I tossed the towel in. Making music no longer easily make my smile bend though. Wows from the crowds and in yet them smiles and backpacks still ain't helping the rent checks. Ain't far from crack packs if I hearse these verses. Flipping words, shit for an empty purse feels worthless. Listen, word of mouth and then a blessing and a curse. We reach heads but the only bread we seize off shirt sales. Tours and shows spread all over the earth. Well, recoup gas and hotels back to this dirt. Hills far away though, believe I ain't complaining. Rather explain it, that unless this southern rain in, we'll show proof we's as real as you. Needing a roof, some shoes, dollar bills and food too. From the dirty met with mismatched skin, acknowledge first that one day this track may end. When there's no more steam in that engine, yet hopefully clean streams being astringent. But needs outweigh cheese, trying to stay in contention. For the love's a hard reason to keep my life in suspension. Suspension. No, but the love's a hard reason to keep a life in suspension, yeah. Che atmosfera, ragazzi, che atmosfera. Aspetta che devo mettere il beat qua. Cioè, non è stato bellissimo. Cioè, un pezzo veramente ti fa... Ah, a me piace un sacco. Vedi che nei linguistici mi piacciono un sacco. Abbiamo un po' approfittato, sì, di questo argomento di tristezza per mettere un sacco di cose che in realtà ci piace ascoltare al buio in camera. Abbiamo già parlato di nei linguistici, vero? Un sacco, allora sì. Possiamo evitare di parlarne. Ma sì, in realtà abbiamo già detto, se vogliamo ripetere un paio di cose. Ma vediamo un po', che potrebbe essere. Possiamo ridire che, insomma, hanno... andiamo un po' avanti, disco, forse... Parliamo di questo disco di Bisoft. È il migliore che hanno fatto. Vabbè, non ne vuoi parlare. Ma capito. Ok, praticamente, no, sì, vabbè. Allora, aspetta, allora. È un disco dove loro hanno messo praticamente, cioè, il loro disco più appassionato e, insomma, hanno minimizzato il tutto, cioè, la loro sciocchezza. Chiamano sciocchezza proprio, sì, vabbè, in questo materiale. No, allora, praticamente ho trovato proprio quello come sì, cianto. Allora, come è stato descritto questo disco quando è uscito in America? Ok, sì. Proprio le recensioni dei giornali, dei siti. Allora, il primo, Hype, o una rivista, ha dato 5 stelle al disco. Vabbè, ha detto che è il miglior album degli ultimi 12 mesi. E qua parliamo del 2006. Quindi vabbè, raga, cioè, prendetela con le pinze ste robe, mo. E soltanto per fare due chiacchiere. L'Urb gli ha dato 4 stelle, descrivendolo come un pezzo di bellezza, un radicato insieme di tagli che percorre un'onda costante di slancio contagioso. Insomma, sentite visto disco, cioè... Per forza. E invece l'AV Club ha commentato la produzione magistrale avventurosa di No, che è il produttore di sto, sì, disco, e il produttore del gruppo, anche il rapper The Canyon. Non ha fatto un beat brutto, no, cioè, ma anche questo che ci abbiamo sotto in questo momento, devo dire, mi gasa un sacco. Sì, allora oggi come sottofondo abbiamo scelto il beat tape meno adatto di tutti. Sì, perché è tutto fuorché triste, però c'era, esatto, bisogno di un po' di presa chiama, bene. Questo è V, cioè scritto V-E-E, è un produttore giapponese. Il disco si chiama State of Mind, è del 2000, non mi ricordo, scaricato 2000, un sacco d'anni fa. E oltretutto ci sono anche dei pezzi rappati, c'è un pezzo con gli Strange Fruits Project, un pezzo con Sial Smooth, un pezzo con Face Rock, uno con i Natural Habits. C'è un discone, regà, poi c'è diversi beat, l'ho messo, però in realtà sì, non è per niente triste, però che devo mettere triste? Wow, presi dalla presa bene dei cani, non abbiamo deciso il pezzo da mettere dopo, quindi... Allora, aspetta, decidiamo adesso. Subirete in diretta. Allora, mettiamo ma lui. Ma sì, andiamo di loro. Ecco, finalmente, non vedevamo l'ora di passare questo pezzo, è arrivato finalmente questo momento. Sì, allora. Finalmente. Ragazzi. Questo non è solo un pezzo triste, è una storia, è un'avventura. Sì, di che anno è il disco? Non mi ricordo di che anno è sto disco. Ma che cavolo, non l'ho scritto da qualche parte. Ma non troppo recente. No, lo so, però mi ricordo l'anno, perché devo raccontare una storia. eccolo qua, è del 2006, ok. Ah, siamo vi racconto una storia, anno, sì, infatti. È stato tanti anni fa. Puntini. C'era una volta un ragazzino che girava disperso per un parco cittadino insieme ai suoi amici. Quando i suoi amici gli dissero: conosci One Mic? E io dissi sì. Conoscevo. E mi dissero: Rage dei One Mic ha fatto uscire un disco con Zonta, che conoscevamo perché aveva già bazzicato con Unlimited Struggle, quindi l'avevamo sentito. C'era un remix di Mistaman con produzione di Zonta, l'originale. Il remix di Zonta era una manata. Vabbè. E ha fatto uscire un disco con Rage. Ah, bello! Cioè, com'è sto disco? Si è chiamato Raki. Bello. Abbiamo già sentito sto disco. Esplosione di sentimenti, cose. Cioè, le produzioni di Zonta sono wow. Sì, cioè, le basi sono bellissime, i testi sono un'avventura, cioè sono narra storie praticamente. Cioè. Sì, poi Rage era quello che mi piaceva di più di One Mic. Mi piaceva il suo modo di rappare, la sua voce. Che era abbastanza... Oggi Rage fa tipo un cantante poco, pop. Sì. Cioè, no, tipo... ascoltatevi il vecchio Rage, per questo Rage che vi facciamo, sì, sentire, cioè, noi ora. Sì, canticchia, fa... tu mi mando, sai... Cioè, capito? Cioè, no. È un pezzo che va sentito più volte per apprezzarne totalmente la poesia. Almeno io l'ho dovuto sentire diverse volte per riuscire a apprezzarlo totalmente. Però se fate attenzione alle parole, seguite la storia... Sì, è emozionante. La triste storia di una tigre... Di una tigre, dagli occhi di Giada. Dagli occhi di Giada, esatto. Vabbè, allora mettiamo Toraki di Sì. Regge Zonta. Vado in play, godetevelo. Bella ciao, vado. Lei è l'ultimo baluardo di un'era al tramonto. C'era quando il mondo era giovane e l'uomo era solo polvere attorno. Figlia di Gaia, nata dal soffio del vento che le dava forma all'ombra del cielo che respirava. Il sole sorse, la scorse, colpito dalla sua bellezza, le diede fierezza e magiche forze. Zampe per correre, artigli per colpire, zanne fatte per mordere, come per stringere, appigli per uscire. La notte, anche la luna la vide, decise di darla in dono, sia il buono che il male per uccidere. L'intelligenza superiore per decidere, ma anche un animo interiore oscuro e duro con cui convivere, fatto di scelte libere, ma fatto di vivere per sempre nel verde, ma in assoluta cecità le accettò le responsabilità e prese la sua strada, ma già sognava degli occhi di Giada. Toraki, tigre dagli occhi di Giada. Toraki, unica regina di Okinawa. Toraki, Toraki, Toraki, Toraki, Toraki, Toraki, Toraki, Toraki, tigre dagli occhi di Giada. Toraki, unica regina di Okinawa. Toraki, Toraki, Toraki, Toraki, Toraki, Toraki, Toraki, regina della corda del Pacifico, con l'animo pacifico di chi diventa sorda quando il grido è del pericolo, protettrice delle creature di madre terra, eletta dalla stessa quel ruolo sull'orlo della guerra. Al cielo che voleva il monopolio del suolo, si tingeva d'olio e scagliava loro ogni fulmine, un tuono in quel turbine d'odio. Tora aiutava i più deboli, la sola risorsa di chi non poteva difendersi nell'ergersi con la sua mole. Il suo ruggito era la liberazione di mille parole d'amore, squarciava nubi con le zanne, sfatava il mito dei dubbi, mandava in panne i colori più cupi, salvò tutti meno uno. La cecità la costringeva alla percezione che non arrivava fino alla distrutta dal rimorso, contava il tempo e i suoi rintocchi e dentro bramava più non posso quegli occhi. Toraki, tigre dagli occhi di Giada. Toraki, unica regina di Okinawa. Toraki, Toraki, Toraki, Toraki, Toraki, Toraki, Toraki, Toraki, tigre dagli occhi di Giada. Toraki, unica regina di Okinawa. Toraki, Toraki, Toraki, Toraki, Toraki, Toraki, Toraki, Toraki. Il desiderio bruciante la rese vittima nel momento in cui si è resa ciò che le pareva importante. Gridò quella notte il suo dolore alla mezza falce con parole di miele dal sapore di sangue. Dimenticò la promessa e la sua stessa natura, ce la portò la paura e madre natura la pianse e la mandarono in trance. Quelle pupille, il suo cervello era sveglio ma il corpo voleva mille battaglie. Si ritrovò ad uccidere chi prima proteggeva, come poteva reprimere ciò che non voleva. Si narra che uccise, derise, perseguitò, dilaniò, però lo fece mentre piangeva. Il sole dall'alto la guardò, inviò i suoi raggi più forti degli altri, la pietrificò. Ciò che si verificò fu la fine di Tora la pura, che da quel giorno è stato demonito nella fortezza di Shura. Ora che gli occhi di Giada guardano gli occhi di Giada, io lascio gli occhi di Giada per l'energia della tigre. Mo senza gli occhi di Giada guardo chi ha gli occhi di Giada, dentro quegli occhi di Giada non c'è energia della tigre. Toraki, tigre dagli occhi di Giada. Toraki, unica regina di Okinawa. Toraki, Toraki, Toraki, Toraki, Toraki, Toraki, Toraki, Toraki, Toraki, tigre dagli occhi di Giada. Toraki, unica regina di Okinawa. Toraki, Toraki, Toraki, Toraki, Toraki, Toraki, Toraki. Ora che gli occhi di Giada guardano gli occhi di Giada, io lascio gli occhi di Giada per l'energia della tigre. Mo senza gli occhi di Giada guardo chi ha gli occhi di Giada, dentro quegli occhi di Giada non c'è energia della tigre. Ora che gli occhi di Giada guardano gli occhi di Giada, io lascio gli occhi di Giada per l'energia della tigre. Mo senza gli occhi di Giada guardo chi ha gli occhi di Giada, dentro quegli occhi di Giada non c'è energia della tigre. Brividi. Sì. Massima serietà. Che pezzone. Che, sì. Che pezzone. Vabbè, vai, sì. Sì. Wow. Allora, parliamo quindi di Rage, che è questo nostro rapper italiano, appunto, come diceva prima il nostro Mars, che è stato conosciuto inizialmente come componente degli One Mic con, appunto, Enzi, che è il suo fratello minore, fra l'altro, sì. e Raiden. Minore anche di stazza. Sì, fra l'altro. Inizia nel 99 con varie collaborazioni, progetti, ma poi arriva nel 2003... con Enzi e fondano appunto gli One Me, che è proprio lì che inizia la sua svolta nella carriera, appunto. E la sua prima pubblicazione, Sotto la cintura, prodotta dalla Sweet Records, e nel 2006 esce invece appunto Tora Key, realizzato in collaborazione con Zonta, che dicevamo prima, e questo trip, va bene, fatemelo dire, è un trip totale, cioè se questa cosa qui ve le ascoltate al buio la sera prima di dormire, entrate in un mondo parallelo, io ve lo dico, di tigri e cose simili. Tutto quello che circonda le tigri. Sì, adesso poi Reggio ha fatto altre robe, ma non sì, siamo... no, vi merita ascoltare. No, dopo questo disco ha fatto un altro disco carino, però poi no. Però poi no. Poi dopo il nulla, sai come si dice. Adesso promettiamo loro. Ora toccano loro, sì. Aspetta. Questa puntata è piena di belle cose comunque, ragazzi. Vi è andata bene, vi è sì, andata infatti, molto bene. Sì, infatti, chiacchiere, rutti, problemi al microfono. Vomba ti rappusi. Siamo sempre i soliti. Ma yeah. Prima di passare questo grandissimo pezzo che stiamo per passare, io direi di fare un attimo un giro di quelle cose formali solite che dobbiamo fare sempre. Vabbè, aspetta, comincio io. Va bene. Allora, prima di tutto, voglio comunicare a tutti i nostri radioascoltatori che... Cioè, scusate, ma non facciamo una puntata per 2 settimane e nessuno ci scrive, nessuno ci chiede niente. No, a me è stato chiesto. Sì, è troppo comodo, a me non mi è arrivato niente, neanche per mail. La mail è postawombat@insieveria.net, cioè ve lo ricordo. Scrivete, oh, ma che cazzo stai? Ma che fine hanno fatto Mars e Vintro? Ma perché non c'è più musica e pop in radio? Credo che andate in onda la replica per 2 settimane, però Dio mio, cioè la sapranno a me, spero che qualcuno saprà a memoria quella puntata. Il sito, vado avanti, voglio dire tutto io. Ma adesso no, ci la vita, scusa. Tutta la puntata per incazzarmi un disastro. Va bene. Il sito da cui potete sentirci, se ci state sentendo in radio, potete cercarci sul sito wombat.noblogs.org, dove potete risentire tutte le vecchie e soprattutto le presenti puntate e le future. Scriveteci sulla pagina Facebook di Sessioni Notturne, o quantomeno mi piacciateci, seguiteci, dateci dei consigli sulle grafiche, sulle cose, saremo molto contenti di avere dei consigli, ecco. E niente, che più, 13:59 AM sono le onde, le frequenze su cui potete sentirci se non avete internet. Che può capitare. Ok, andiamo avanti. E adesso possiamo andare avanti e passare a livelli altissimi di hip hop mondiale. Signori, adesso passeremo un gruppo che stranamente non abbiamo ancora passato. È vero. Perché non abbiamo ancora passato? Perché, cioè... Perché non ci sentivamo all'altezza. No, non è vero. È che potevamo anche passare in realtà nel 2018, nella prima puntata. Però il disco nuovo non mi ha fatto impazzire. Eccoci. Quindi adesso passiamo... Raga, adesso passiamo il Wu-Tang Clan. Quello di Wu-Tang Clan, and nothing to fuck with. Yeah! Adesso passiamo il Wu-Tang. Vi facciamo sentire un pezzo tratto dal disco The Wu. Disco uscito nel 2000. Sì, nel 2000. Soprattutto è stato il primo disco hip hop originale americano underground che ho comprato. Perché il primo disco originale che ho comprato fu di Eminem. Non mi vergogno a dirlo, cioè Eminem è fortissimo. Certo. Cioè, mi piace un sacco Eminem, è fortissimo. Fu il primo disco originale. Però un giorno andai in un negozio con mio cugino, cercavamo dei dischi. Che c'è? Che non c'è? Che c'è sta pila di dischi hip hop, non pensando che ce ne avessero. Comincio a cercare, c'erano mixtape, robe, Snoop Dogg, 50 Cent, i classici. Poi mi trovo tra le mani questo disco che ho scritto Wu-Tang Clan, ho fatto, oh mio Dio, io devo avere questo disco. Lo paghi 10 euro. Onestissimo, mo sono magnato sto disco. E adesso vi facciamo sentire I Can Go To Sleep con Isaac Hayes, cioè, quindi... che abbiamo già passato, non mi ricordo in che pezzo lui. Isaac Hayes? Ma no, ne abbiamo parlato. Isaac Hayes è stato uno dei featuring dei dischi solisti di Guru in Jazz Methods. Ecco perché, giusto. Vabbè, poi è un musicistone Isaac Hayes, vedo. Quindi adesso vi passo, cioè capito, questo è un gruppone con un super featuring, un super pezzo, bella botta triste. Il sample, se l'avete già sentito, è perché è stato già utilizzato diverse volte, anche il bill l'ho utilizzato. E quindi adesso mettiamo in play. Ma piangete sì. Con Ghostface, mi raccomando. Ciao. He's the Biggie, Tupac, Big L and Big Pun. Havoc on the streets of Staten. Snitches, house niggas, children watch as they produce the same pattern. Somebody raped our women, murdered our babies, hit us with the cracks and guns in the early 80s. For those that murdered me shall stand before God, to fall at the hands of faith, then out comes the rod. Bring it back, bring it back, bring it back, bring it back, bring it back. What the fuck is going on? I can't go to sleep. Feds jumping out their jeeps, I can't go to sleep. Babies with flies on their cheeks, it's hard to go to sleep. It's bold, 2 6s twice, I couldn't go to sleep. Hey yo, we deep in the stands, we carry canned guns. Whippy got hit him with the big shit. Boom, boom, that bad the demon spot. Then pass the leak spot. Don't pass our niggas again, you took a cheap shot. I know we're fucking with me, you get your meat chop. You know we fell in our face, you think the beef stop. Call on the chariots, call on the ambulance. You better smile, my nigga, you want candy camp. Gangsta bros, these bees, the laws, walk with big balls. Nigga, motherfucker, knew that I didn't take what was yours. I'm the nigga that made you, man. When your rap wasn't doing well, I'm the nigga that gave you a hand. Learn to love each other. Don't get mad, cause it ain't that bad. If you're who you are, you've come so far. It's in your hands, just be a man. Get the jelly out your spine. I can't go to sleep, I can't shut my eyes. It shot the father in his mom's building 7 times. It shot Malcolm in the chest, one of his little seeds. Jesse watching as they shot King on the balcony. It's Woody Marcus, Garvey Kirby, Travis Walkers. With the knowledge of ourselves and our forefathers, old Jack claims he heard the rifle shots crackling. Her husband head in the head, he tried to put it back in. America's watching, bloodstained ink blotches. Never to budge in his goal for integrating college. But this ain't somebody, this is Trick Valley. They try to keep with the slaves and steal slave mentality. Walking through Park Hill drunk as a fuck, looking around like there were so many to break this world down. They got me trapped up in a metal gate, just stressed out with hate. And this gives me no time to relax and use my mind and meditate. What should I do? Grab a blunt or a brew? Grab a 2-2 and run out there, pick this fucking violence in you. You should be calling the shots. I can't shut up, son. The power is in your head. Stop all this crying. Non è un pezzo, è un film. Decisamente, cioè, un pezzo fuori dal comune. Assolutamente, è un film, è un monologo, una cosa impensabile. Non, cioè, potevano avete altro... notato come piange Ghostface? Cioè, infatti, non potevano altro che sorprenderci i nostri Wu-Tang, cioè non c'è verso, non c'è verso. Allora, parliamo un attimino del Wu-Tang, giusto due pillole perché c'è troppa roba da dire sul Wu-Tang, non stiamo scherzando. Allora, il Wu-Tang Clan, collettivo hardcore hip hop newyorkese, okay. Conosciuto conosciuto perché sono un milione di persone, conosciuto perché hanno fatto un milione di dischi, conosciuto perché da solisti hanno fatto un milione di dischi, e conosciuto perché nel loro collettivo Wu-Tang hanno gruppi che si sono formati grazie alle loro ispirazioni e grazie a loro, sin da pure Asap Syndicate, che si sono formati come Kill Army, Sons of Man, che è roba che, ragazzi, cioè in America ha fatto la storia. E il Wu-Tang ha fatto la storia un po' ovunque. Ora, come si è formato il Wu-Tang? All'inizio degli anni 90 esisteva un gruppo che si chiamava All In Together Now, formato da Rakim, da Giza e da Old Dirty Bastard. Tre nomi a caso, credo così. Questi tre, poi... Sì, infatti, tu ti dici, capito? Sì, ma capito, sono Mimico, come? No, capito, sono Risa, Gisa, vuol dirti, capito? È una roba incredibile. Che hanno fatto? Hanno deciso di fare un altro gruppo, erano un trio, si sono uniti altri 7C, che sono Ghostface, Method Man, U-God, Rec One, Inspecta Deck e Masta Killa. Cioè, capito? Cioè, si sta trattenendo dal non urlare. Sì, sì, perché se urlo il microfono esplode. Già non so i mini volumi come so oggi. Ma siamo un po' sto beat di sottofondo. È un pezzo, non un beat. Che sono finiti i beat. Ho perso pezzi. ora, il Wu-Tang. Cioè, cosa vuol dire Wu-Tang? Adesso questo, ci divertiamo questo, un po'. Questo è interessante. Allora, partiamo soprattutto tra i famosi acronimi conosciuti. Uno è We Usually Take All Niggas Garments. L'altro è Witty Unpredictable Talent and Natural Game and Wisdom. No, game, e basta, scusa. L'altro è Wisdom, Universe, Trat, Allah, Nation and God. Cioè, che roba, io non so neanche cosa dire, credo, su questo. Beh, il Wu-Tang, poi il nome viene preso in realtà anche dai vecchi film di Kung Fu interpretati da Gordon Liu. Da qui ci stanno, sono tratti tantissimi dialoghi all'interno dei pezzi. Se avete sentito i dischi vecchi del Wu-Tang, ogni tanto sentite gente che parla e fa what the, wow, pshu, pshu. Cioè, sono presi tutti da sti film. Un sacco di volte sento queste robe. Da Wu-Tang. C'è anche un film che si chiamava tipo Samurai vs Wu-Tang, una roba del genere. Aspetta che ce l'ho scritto. Bla bla bla bla. No, non l'ho tagliato. Trovatelo voi. Sì, vabbè. Ah, no, è Shaolin vs Wu-Tang, vedi, eccolo qua. Era un vecchio film dell'83. C'è anche un disco che si chiama Shaolin vs Wu-Tang, si chiama Mixtape, vabbè. Vabbè, niente, questo disco è il terzo album del gruppo, uscito nel 2000. Nel disco ci stanno Isaac Hayes, Redman, Busta Rhymes, Nas, Snoop Dogg, c'è pure qua il featuring della Madonna. Basta, non vado avanti. Sapete, in questo pezzo rappavano Ghostface alla prima traccia e Risa alla prima strofa e Risa alla seconda. Quindi sono 8 componenti, ma che si vedono insieme in pochi pezzi. Poi passeremo Forever, dove rappavano tutti un pezzo da mezzo. Bam bam bam bam. E adesso chi passa? Aspetta. Sì, no, passiamo un altro pezzo, poi dopo voglio aprire una nuova rubrica. Apriamo dopo. Non so di che cosa stiamo parlando. Ma faccio cosa a sorpresa. Prima ci pensavo. Mi fido ciecamente da oggi guardavo anni. One Piece e ci ho pensato. Vabbè, adesso famose giornate impegnative di Mars. Ehi. Adesso non posso. Non mi colleggiare in diretta. No, cioè, ci mancherebbe. Adesso passiamo in italiano. Sì, passiamo in italiano. Non possiamo scendere troppo di livello. Ok, passiamo lui. Sì. Scendere troppo di livello nei nostri ranghi italiani, ecco, nelle nostre circostanze. Okay, però specifichiamo perché abbiamo messo questa traccia, che non è proprio la più triste. No, però è bella. Ho capito. No, è perché cioè non è triste, è malinconica e, okay. ed è bella, è bellissima, ha fatto la storia dell'hip hop italiano questa traccia. Ma non è triste. Insomma, non è neanche presa bene, ecco. Beh, no, è un però, po', diciamo è un po' che speranzosa, è un po' liberatoria di quella malinconia di quando qualcuno esce dalla tua vita e era necessario che uscisse dalla tua vita, però al contempo nella quotidianità ti manca, no? Allora, io vi giuro, io avrei voluto passare un altro pezzo, non perché questo non mi piace, cioè, cazzo, cioè sì che mi piace, però ci sono pezzi più tristi, sì, che ha fatto lui. Pezzi fatto lui. Molto famosi e molto tristi che ha fatto lui. Però Vintro ha fatto no, questo pezzo dobbiamo passarlo. E ha detto va bene, ok, però... No, io ci tenevo particolarmente a passare questo pezzo. Quindi tra me e però abbiamo deciso di mettere questo. Ma perché pezzo. Facciamo una puntata sui pezzi tristi e malinconici e non mettiamo questo pezzo qui? Ma di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di Aspettando il sole di Neffa. Stiamo parlando proprio di questo pezzo qua, è necessario. Sarete sì, ma Guerra e Pace è più triste. Guerra e Pace è più triste, però... Lo passeremo poi. Vabbè, lo metto e parli dopo. Va bene. Sicura? Aspettando il sole. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Quello che stiamo facendo tutti noi. Aspetta, e nell'intro voglio dire due cose. Perché è figo parlare mentre c'è la musica. Stiamo aspettando il sole noi in questi giorni. In realtà il sole è uscito oggi. Oggi che dopo quella puntata triste è uscito il sole. E io mi sento un sacco una merda perché speravo più questo. Vabbè, gli dèi sono contro di noi. Ma Neffa no. La tele resta spenta e non la guardo più. Ho un nodo in gola che è difficile mandare giù. Fumo un po', sposto via la tenda. Cielo grigio piombo, io non lascio che mi prenda. La nostalgia che sale lentamente come mai. Io penso a te, mi chiedo adesso dove sei. Cosa fai, chissà se tu avrai mai pensato a me. Al nostro fuoco che bruciava mo' e cenere. Ma tutto passa piano eppure se fa strano. Io sorrido perché so che oggi non ti chiamerò. Quel che viene venga mi sta bene. Quel che è stato è già passato.

con cui appunto raggiungerà il suo massimo, il suo massimo, no, il suo primo iniziale successo grande, discone, altra colonna sempre del, dell'hip hop italiano. Il pezzo che vi abbiamo fatto sentire Aspettando il sole è dell'anno 96 ed è il singolo che apre il sipario sull'album Neffa e i messaggeri della dopa, altro discone. Che in realtà era il disco prodotto l'anno precedente, ma per problemi di distribuzione uscì poi in ritardo in realtà. Sì. A questo album qui hanno partecipato tutti i personaggi più noti della scena hip hop italiana di quegli anni lì, appunto quelli che Neffa chiama i messaggeri, che sono tanti, ovvero citiamo i migliori, cioè i più noti, Esaka, Os One, Sean, DJ Graff, un sacco di altra gente, insomma. Ci sono tutti i messaggeri e un disco che avete sentito di sicuro. Nello stesso periodo produsse anche il primo album da solista di Chaos, One, ovvero Fastidio, nel quale duettò tra l'altro in due brani. E niente, direi che su Neffa per oggi ci fermiamo qua, perché Neffa è un pozzo di scienza e potremmo farci una puntata intera, se non tre. Quindi chiudiamo, grazie, arrivederci. Più o meno sì. Oh, guarda lì, c'era anche il suonino da, da televendita. Dai, stavamo chiuso. Invece dobbiamo continuare la puntata. Qui. Allora adesso, aspetta, adesso che mettiamo? Io ce l'ho un'idea. No, no, non ho voglio sentire. di già. Di già. Aspetta, ma quanti pezzi sono rimasti? Allora, vediamo un po', c'è uno, due, tre, quattro, cinque, sei e sette. E face. Veloci, veloci, veloci, un pezzo dopo l'altro. Pa pa pa pa pa pa. Sì, infatti. Anzi, vabbè, boom bap, boom bap, boom bap. Di me ne vado. No, senti, allora mettiamo lui. Ok, traccia vuota. Ah, ok, ok. Dai, traccia vuota. Adesso mettiamo questa, allora, mettiamo questa traccia che è bellissima. Però no, io non ho trovato nulla sugli artisti. Quindi ve la facciamo sentire e poi ci sorridiamo. Vi diciamo che sono questo pezzo. Allora, in realtà non mi è chiaro se questo pezzo è di Tanji Hige col featuring di Convinced, oppure è di Convinced col featuring di Tanji Hige. Cioè, su internet ho trovato questo pezzo sotto diverse, sotto diversi nomi. Un pezzo si chiama Good My Neighbor, però non è chiaro dov'è. È uscito come singolo, è uscito in un album, di quali dei due è. Quindi lo facciamo sentire perché è fico, a me piace, il sample è una bomba, un pezzo tristissimo. E poi andiamo avanti, no, non abbiamo niente dati su loro, quindi pace, quindi. Giusto? Siamo qui per far sentire la musica, no, le nostre voci. E siamo... Aspetta, ma... no, no, aspetta, aspetta. Ah già, c'era quell'idea della rubrica. Avevo un'idea della rubrica. Riparte il beat. Sì, mi sembrava brutto sto farlo così. Allora, io direi che ogni tanto, cioè in ogni puntata, vorremmo, te lo racconto anche a te oltre che a loro. Infatti. Apriamo una piccola rubrichina proprio al volo, che si chiama news, capito? Mm. Okay. E diciamo le news, capito? Ah, sì, sì, sì, sì. Ora io perché ci ho pensato oggi? Perché ho letto un paio di news e quindi ho detto, vabbè, approfittiamone per dirne in radio. Ok, allora, la prima news, vabbè, ho detto prima, c'è il disco nuovo di Claver e Kintsugi. Ci sta, è in uscita. Mm-hmm. Ieri è uscito un pezzo nuovo di Chiave. Bel pezzo, signorone, che abbiamo passato un sacco di volte. Un bittone della Madonna, il bizzo, mi sbaglio, di Macro Marco, che, che ultimamente sta dando il meglio di sé. Esatto, è un bel pezzo, si chiama In Forma, no, sì, no, sì, In Forma si chiama. È uscito ieri, è uscito anche il video, andatevelo a sentire, è un bel pezzo. Un'altra news, vediamo un po', Claver. Quest'estate, ho già detto, Claver. Quest'estate uscirà un nuovo EP di Il Bill. Wow, non cioè, si ferma mai, mamma mia, platelo, legatelo. C'è un sacco di tempo libero. E poi aspetta, c'è un'altra news, ma non mi ricordo, quindi diciamo un'altra news, news che non interessa a nessuno, però a Mars sì. Sì, a me è interessata, in realtà l'ho letta. Praticamente è morto Larry Carroll, che chi è Lenny Carroll? Cioè, in realtà l'ho scoperto l'altro giorno che era Lenny Carroll, è quello che ha fatto la copertina a un disco di Il Bill. Era il disco di Eurofrey, risolto, capito? Lì fece la copertina. Praticamente Il Bill ha, cosa ha fatto? Ha pubblicato i primi schizzi preparatori di quella che doveva essere in realtà la copertina, completamente diversa da poi quella come è uscita. Come è uscita poi, sì. Ed era un sacco strana, cioè era tutto sporco. Wow, capito? Cioè, beh, niente, raga, non di questa cosina. Cioè, ma quante ne sa il nostro Mars? Io sono un piccolo nerd, io passo il tempo in realtà, quando sono in bagno, sto molto col telefono in mano. Scopro un sacco di cose nuove. Vabbè, dai, passiamo un po' di musica la adesso. La rubrica news, la riprenderemo. Sì, faremo una sigla con news, troveremo qualcosa, dai. Andiamo? Andiamo. Goodbye Never. Get your love when I'm gone. When get your love when I'm gone, when I've said my last goodbye. Ooh, get your love. Dai. This is that groove. Put you in the groove. Get your love. When I'm gone, when I've said my last goodbye. Ooh, get your love. Get your love. When I'm gone, when I've said my last goodbye. Ooh, get your love. No goodbyes right now, no curtain calls. I'ma keep rhyming hard till I hurt my jaws. Even when the crowd leaves and seats are empty and the lights go out, I'ma keep on spitting. But now this cat ain't Sylvester. It started in my second year of college, first semester. Trigonometry and psychology stressed them, so I said fuck it, headed in a new direction. Hip-hop was my calling. Wasn't driven by the street dreams and the ballin'. I did it cause I knew I could go further than the top is. Aim for number one, forget being in the top 10. It's my ego that controls me. It's number one to bust like Los Angeles and Kobe. The final result is me winning and I'm holding up the trophy. The dynasty begins, get to know me. Yeah. First time I'm feeling like I'm truly living. I weigh my options every time I make a new decision. A child that grows up hungry learns to work with food he's given. So judge a man by who he is and never who he isn't. My parents flew here in the 80s from a foreign nation. They raised a prince who's getting ready for his coronation. See, I've been dormant, waiting, searching for the perfect moment. I never talked about my issues, but my verses told them. I never let the flashy colors or the trends move me. Cause I ain't never been the type who would pretend to be. Nobody but myself, I'd rather let it blend smoothly and live the dreams of all my family and my friends through me. Absolutely, it's a beautiful thing. See, I'm the quiet kid who never spoke but grew up to sing. It's like an angel came down and I flew with the swings. They used to beat us in the fields, but now they feel us as kings. It's love. Ditemi se non è un bittone. Vi prego, ditemi che non è un bittone. Un bittone. E un su questo pezzo abbiamo già detto abbastanza, c'è direi, fatto. Prima di passarlo. Quindi continuiamo con la rubrica news. No, allora, mi sono appena ricordato un paio di cose. È brutto dire la fine puntata, quindi capito al volo proprio. Allora, è uscito un disco nuovo di Blood Exile. Lo dico anche a te, è uscito un disco nuovo di Blood Exile. Sì, si chiama True Alivin. Andatevelo a sentire, trovate sicuramente su Spotify. È uscito il disco nuovo di Static Selecta con Currency. Ah, Gran Turismo, andatevelo a sentire. È uscito il disco nuovo di Chix e Craig G, andatevelo a sentire. Vabbè, prima momento finita, continua la prossima volta. Fermiamoci qua. Beh, mettiamo andiamo avanti loro. E mettiamo un gruppo, sì, un duo, diciamo, che ci piace tantissimo. Non so se l'abbiamo già passati, no. non credo. Abbiamo passato... Lui da solo. Il abbiamo primo, passato... allora, abbiamo passato l'ex gruppo del componente rappone di questo duo. E abbiamo passato l'ex gruppo del beatmaker di questo duo. Incredibile. Che sì, è vero, è vero. E adesso invece li troviamo insieme. Loro sono Vansil e Mr. J. Medeiros. Che si riuniscono in questo duo magico che di nome Olta, scritto A-L-L-T-T-A. E dopo vi diremo perché è scritto così. Esatto. Il pezzo che abbiamo scelto è un pezzo molto triste, molto leggero al contempo, ma anche molto triste. Si chiama Touchdown, è la prima parte, perché poi c'è una parte 2 nello stesso disco. Informazioni, sono non c'entra il pezzo. Dai, ne parliamo dopo. È vero. Olta, touchdown, parte 1, tutto vostro. I said if I make it to Rome, dear God, don't forsake me. I'm proud, but I'm aching. I look at the ground and I'm shaking. I gave you the crown I was making. I hang in the clouds and I'm waiting till they come around and they make me pull up my tray and my seat back. Safety is key and I see that anxiety needs it. This is sobriety's feedback. I'm high off the day she hit me back and told me that she liked my words. Told me that she liked my words. She recites Amelie, seems like they hers. Amelie, seems like they hers. She's an anomaly, easy for her. Anomaly, easy for her. She said she's fine to me, I'm feeling honesty, I'm feeling honest, she even responds to me. I'm floating by your side, on a paper plane I ride, and we touch down. Feel her in spirit and mind and biology, feel her in all of me. Now I see all of these years I was lonely in fear of monogamy. Hear my philosophy, nobody's stranded, nobody's property, nobody's branded. I don't know Socrates, so my apologies. Thought love was not for me and my abandonment. Issues and tissue I will not be handed, though I've been missing you since I was handed to mama. No, I'm a see, I'm a new breed of the Adam. And if you knew what I mean, I am adamant. I can be seen flying dragons through all that is real and imagined. See me in panic through volcanic ash, 40 hours of travel. Thank God that we landed, thank God that we landed. And it's crazy to think we ain't touched, wow. I'm floating by your side, on a paper plane I ride. And we touch down, touch down, we touch down, yeah. We said that we meet up at baggage. Said we would leave out the baggage. Check the TV for her status, my head for her beauty. And now she got me feeling average. I guess it's true that we all need a hand with them. My psychologist told me to manage them. For a man of my age, I must get it together. You get it? Manage, manage them, forget it. I'm floating by your side, on a paper boat I ride. And we touch down, we touch down, we touch down, we touch down, yeah. My problem is I need attention. On a paper plane. I try to solve it as most do with mentions. Mentions of grandeur and or candor. And did I mention that I'm a musician? Did I mention that I'm a musician? Sending songs over water like pigeons, or was it pigs to the slaughter? I'm guessing before you were here, these were just prayers in the dark. So dark, I thought no one was listening, but there you were listening. Two parts in a pair, the man in the air, the arc to triumph I'm envisioning. Thank God that we never cut pigeon wings. We never cut pigeon wings. I'm floating by your side, on a paper plane I ride. And we touch down, touch down. Floating by your side, on a paper plane I ride. And we touch down, touch down, we touch down, yeah. I'm floating on a paper plane. And we touch down. Bounce, bounce, bounce, bounce. Facciamo una puntata senza parlare. Faremo una puntata senza parlare per niente proprio, annunciando soltanto dei pezzi. Sì. Mamma mia, che beat felice, raga. Oggi è proprio giornata strana. Allora, gli Olta. Cosa vuol dire Olta? Vuol dire a little lower than the angels. Quindi un po' più in basso degli angeli, no? Mi senti quello che... Di volta sono un duo composto dal produttore francese Van Zyl, appunto, ex produttore e rapper degli Hocus Pocus, e dal rapper americano Mr. J. Medeiros, rapper dei Procassions, gruppo che abbiamo già fatto sentire. Sì, bellissimi! Che ormai si è sciolto. Nato nel 2015, il loro primo EP conteneva appunto... Senti come bercia e scoprirlo, abbassi un po' no. Oh, e qua non mi pare. Bene così. Detto, sì, no, un po' a cazzo oggi. Il loro primo EP conteneva appunto questo pezzo, Touchdown, Ed Woods, uscito nel 2016. L'album The Upper End è uscito nel 2017. Mentre albumone, al discone, raga, c'è una botta dopo l'altra. Mentre per 9 settimane, a partire dal 27 settembre 2017, gli Olt hanno pubblicato un singolo a settimana su YouTube, che poi hanno raccolto nel disco Facing Giants Single Series, che pure è una manata dopo l'altra, cioè... questo, cioè singoloni, produzioni. Poi è una bomba, capito? Cioè di Van Zyl ne abbiamo già parlato, quindi diciamo due cosine su Medeiros. Neanche troppo in realtà, eh. Vabbè, abbiamo passato l'Ocus Pocus, quindi abbiamo parlato di Van Zyl. È Van Zyl, sì sì. Mr. J. Medeiros, nome d'arte di Jason Christopher Medeiros, simpaticissimo, rapper. Seguitelo su Instagram, io sì, lo faccio tritto, e me la piega. Cioè se lo vedi, credo rap a poi lo vedi, è tipo 1,20 m. Sì, è un con la faccia grande e la barba. Che tra l'altro ha fatto uscire da molto poco un pezzo nel disco dei, della Fine Keep. Un pezzo molto pezzo carino che si chiama Whatever. Era già uscito come singolo prima, sì. E c'è anche Van Zyl comunque. Penso che infatti, è vero, è vero. Vabbè, comunque da Fine Keep non ne parleremo quasi mai, probabilmente. No, cioè, perché no, non sono pop, molto hip hop, esatto. Vabbè, passeremo il pezzo di Medeiros. Vabbè, posso finire questo cagare e poi scusa, andiamo scusa, avanti? Scusa, hai ragione, hai ragione, hai ragione. Cioè, due cose devo dire. Hai rage, one. Ah. Prima o poi vengo uccisa io, lo so. Battute di merda. Vabbè, niente, è un rapper americano, un produttore discografico, un cantautore. Oltre vabbè, abbiamo già detto, oltre ad essere rapper solista, ha fatto uscire un sacco di dischi, oltre ad essere il capogruppo, diciamo così, vabbè, comunque l'ex fondatore del gruppo The Procussions. Oltre facendo parte degli Ulta, è il cantante di un gruppo punk rap che si chiama The Bad Nice, di cui probabilmente non vi faremo mai sentire il disco. Anche, cioè l'ho sentito, che è una bella botta, capito? Cioè lui rappa fortissimo, un disco punk. Cioè magari proprio passiamo, però non so, è tosto. Niente, ci ha collaborato con tantissimi artisti, fra cui David Quelli, Symbolic One, Il Mind, Shade. Ha collaborato con cantanti come Caravan Pale, Palace, non so come si legge Caravan Palace, vabbè. Aaron Spears, Noel Zancanella, Randy Jackson. Ed è un cantante, un rapper conosciuto soprattutto per il suo attivismo. Infatti ha fatto tantissimi pezzi, manifestazioni contro la violenza sulle donne, per l'uguaglianza fra le razze, fra i sessi, fra, cioè, un classico. Un piccolo. Dammi un. Non so bene che cosa vuoi dire, quindi lascerei il dubbio anche ai nostri radio. Abbiamo un piccolo attivista. Un piccolo attivista. Volevo usare una similitudine, ma non mi veniva nessun'altra parola. Vabbè, comunque è forte, c'è un sacco. Poi i dischi vecchi, mamma, pure quelli. È fortissimo. Poi facciamo sentire i dischi vecchi. Ce n'era uno che era uno spettacolo. Of Gods and Girls. Si chiamava, sì, se non sbaglio. Ok. Mm-hmm. Adesso abbiamo passato in americano. Adesso tocca in italiano. Eh sì, io direi il nostro lui. Non lo so, dipende quanti pezzi possiamo ancora passare, Marta. Io Gammon non lo voglio togliere. Vai, vai, vai, io lo sapevo che toccava. Va bene, la puntata triste effettivamente Gammon non può mancare. Sì, allora questo pezzo di Gammon in realtà è di Fabio Masta, questo pezzo. Fabio Masta, produttore salernitano. Senti, tiriamo corto questo video, vi passa tutti i pezzi. È oggi. Vero, allora, è vero. Fabio Masta, produttore salernitano, ha fatto un disco con un sacco di rapper americani, scritto fortissimo. Fabio Musta. Scritto Fabio Musta, di Salerno. L'ho conosciuto, simpatico. Ha fatto un disco, dentro i ragazzi stanno Termanologi, Geruda Demja, capito? Cioè ha fatto pezzi con un sacco di americani forti nel disco suo, c'è un sacco di gente. E c'è questo pezzo di Gammon e Soulshine, che è la sua ex. Gossip. Sì, però era un po'. Vabbè, dai, andiamo avanti. Gammon, Soulshine, Fabio Masta, Senza di te. E questo, raga, un pezzone triste. Con se un sample. Il sample è di Miles Davis, questo lo so a memoria. Vado. Grande classico. Sì, sì, sì. Senti che bomba. Sì. Qui tutto rimane dove stava. Le settimane in cui qualcuno mi cercava. Le cante durano giusto un'ottava. Qualche amico per fare nottata. 10 camel per mandare il tempo in fumo. E per non essere l'ennesimo nessuno che vive alla giornata e che raschia dal barile. Amore e odio sono alla portata. La linea che li separa è sempre meno marcata. È sempre più sottile di quando l'ho tracciata. Nel centro del freddo il ricordo mi avvolge ed è chiaro che scarto l'amaro e questo gelo si fa dolce. come quando te ne vai e ritorni sempre più forte, a colmare la spirale delle voglie più torbide, quando vieni a toccare le mie corde con le tue dita morbide, nel magnetismo universale che stravolge tutte senza accorgermene, graviti nelle mie orbite. Senza di te, senza di te, io non ho niente, mai poi mai sarei. Io le chiedevo, ci sarai quando qui sarà diverso da adesso, quando questo amore sarà in un altro contesto e subire un tradimento sarà la prova che cresco. Se io t'avessi scelto per il successo, t'avessi stretto al mio petto, t'avessi illusa e gettata come l'ultima felpa nel mio cassetto, sarei stato come quelli contro cui sto combattendo. Ma la mia coscienza non me l'ha permesso, anche se l'avessi fatto col tempo, per coerenza io avrei smesso il giorno stesso. Perché si dice che a letto tutto è concesso, ma l'amore è il rispetto. Senza di te, senza di te, io non ho niente, mai poi mai sarei come sono. Saprà vivere lontano, ma da quel posto lui è segnato, di quel posto lui è la somma in senso lato, e se ne venisse privato non sarebbe più se stesso, cambierebbe il risultato. In questo storyboard vivo ogni giorno come un miracolo, perché la vita non è un programma già stilato, ma è un fumetto disegnato a matita, ed io aspetto che disegni in un pezzo, non in salita e meno abbozzato. Oggi più di ieri questa musica mi sorregge, mi sospende, sfida la fisica e ne riscrive ogni legge, mo mi protegge, mi dà da sempre le soluzioni corrette. E anche se so che non ci pago l'affitto, il sentiero in cui mi guido è dritto, finto di ostacoli e più buio il tragitto, ma il mio sogno da quando ero piccolo, e non mi sveglierò se non lo realizzo. Senza di te, senza di te, io non ho niente, mai poi mai sarei come sono. Anche il giusto merito a Miles Davis in questo pezzo. Beh, un semplone, voglio dire. Vabbè, niente, Fabio Masta, si chiama Fabio Orza, se volete saperlo, ingegnere, ingegnere del suono, bla bla, produttore, a Salerno c'è lo studio, si chiama Different Lab, bla bla. Negli anni 90 ha prodotto il suo primo disco, Questione di Mentalità, che non ho ancora sentito, in realtà non sono riuscito a trovarlo. Questo disco è uscito con la casa, sotto la casa discografica della Baby Grande, che è la stessa di Joe Damind. Dentro, vabbè, c'è un Tremonology, Geruda Damja, Guilty Simpson, cioè discone. E poi è salito, diciamo, è diventato un po' più famoso perché ha prodotto hit, che sono state quelle hit famose di Rocco Ante e Clementino, che sono sentite in TV, come Umaro Sul, con le robe là. No, Umaro Vieno, vabbè, non mi ricordo. Vabbè, comunque ha fatto hit, ok? Vabbè, andiamo avanti. Un sacco di belle cose. Esatto. Allora, adesso passiamo, annuncerò soltanto il titolo dell'artista, poi magari facciamo due parole. Abbiamo You and I di Night Skinny, e è il momento di... Featuring? Vabbè, adesso io metto in play, poi pace, vabbè, ok? Faremo dopo. E da quando ci sono che so che ci sarai, lungo il mio cammino siamo tra la moltitudine, nella solitudine, in mezzo ai miei guai, nella mia attitudine. Da quando ci sono che so che ci sarai, lungo il mio cammino siamo tra la moltitudine, nella solitudine, in mezzo ai miei guai, nella mia attitudine. Io e te mi sembra da sempre, da un passato ancestrale attraverso il mio mentre, allo stato attuale, verso il futuro, anche il più duro, cuore e mente in testo al sicuro, calpesto questo globo a tempo di ogni colpo che mani, nel testo in ogni luogo, oggi e domani, vivo della vibra che mani, mi sani, se la nota positiva tra le mani, tu mani, basta un block note, se un blocco di note, con report reportage, più di un reporter, io aggiungo del mio con te per supporter, spunti fantastici che manco reporter, occupo spazi spaziali, non mi sazio, mi rialzo alle porte del suono, più forte per l'onore e l'onore, versato per evolvere la pace interiore, buttare le volte, e da quando ci sono, che so che ci sarai, lungo il mio cammino siamo... Tra la moltitudine, nella solitudine, in mezzo ai miei guai, nella mia attitudine, da quando ci sono, che so che ci sarai, lungo il mio cammino siamo. Tra la moltitudine, nella solitudine, in mezzo ai miei guai, nella mia attitudine. Io e te nel mio ghetto blaster, comprato col guadagno di 3 mesi d'estate, passate nella polvere a spaccare più piastre, pur di ascoltarti da 2 valide casse, tu muovi le masse, la prima terza classe, come nel pianista sull'oceano, note che azzerano vertici per divertirci dalla base, e si rinasce uguali come in fasce, tu hai permesso di unire Glenn Miller e Louis Armstrong per fare faville, quando afro e anglo non potevano affatto per la legge incivile di un uomo contro un altro, tu hai portato Bob Marley sul palco, armato di suono, ha fatto portenti, ha unito quelle mani che lo avevano sparato, sfidando il potere con le note tra i denti, e da quando ci sono, che so che ci sarai, lungo il mio cammino siamo. Tra la moltitudine, nella solitudine, in mezzo ai miei guai, nella mia attitudine, da quando ci sono, che so che ci sarai, lungo il mio cammino siamo. Tra la moltitudine, nella solitudine, in mezzo ai miei guai, nella mia attitudine. E da quando ci sono, che so che ci sarai, lungo il mio cammino siamo. Tra la moltitudine, nella solitudine, in mezzo ai miei guai, nella mia attitudine, da quando ci sono, che so che ci sarai, lungo il mio cammino siamo. Tra la moltitudine, nella solitudine, in mezzo ai miei guai, nella mia attitudine. L'avete riconosciuto il nostro DJ Luigi in questa veste così macabra, oscura e tetra? Cioè non è esattamente un pezzo triste, è un pezzo che già è un pezzo che più che altro sorprende, perché Luigi non te lo immagini in questi panni qua. Sì, ma Ned Skinny può tutto. Esatto. Ned Skinny, aspetta, che possiamo dire su Ned Skinny? Beh, due robe. È un lavoro interessante. Vabbè, Ned Skinny si fa questo, ragazzi. Cioè, esatto, è un lavoro interessante di Ned Skinny, questo Metropolis Stepson, che è il disco 2010. Del 2010. Yes. Vado io, vedete? Sì, rapida però, dai. Ok, ok. Ned Skinny è questo produttore discografico e DJ italiano che comunque... continua a essere molto considerato nella scena rap italiana e continua a vantare numerose collaborazioni. E niente di che, appunto, questo pezzo ci interessava metterlo soltanto per far notare questa attitude strana di Luigi. Risale all'11 novembre del 2014 la pubblicazione di Zero Kills, il secondo album in studio del produttore di Ned Skinny, dove appunto abbiamo la partecipazione di artisti tipo Gaemon, Salmo D'Argento, sì, insomma. Di dopo, cioè, Metropolis Step sono uscito prima. Basta, sì, avanti. Sì, andiamo avanti, siamo di fretta, siamo. Sì, abbiamo già fatto tardi, raga. Cioè, adesso vai. Adesso parliamo, cioè non parliamo in realtà, vi facciamo sentire. Adesso passiamo a Nesli Rice. Perché passiamo a Nesli Rice? Ma chi è? Il fratello piccolo dei Fibra. Perché passiamo a Nesli? Perché sì, perché ho deciso di passare Nesli, perché il disco Ego che fece uscire è uno dei dischi più belli che ho sentito in vita mia. È una bomba di disco. Continuerò a premere per passare più pezzi di questo disco. Oggi abbiamo scelto quello più triste, anche se in realtà è un disco tristissimo. Questo è un pezzo d'amore triste in realtà. Non lo metto parole da dedicarmi, però pure quella è una bella botta di tristezza. Niente, due pillole dopo e poi si va avanti. Abbiamo fretta, chiudiamo, quindi sentitevi il pezzo e basta, ciao. Portami lontano più che puoi, se lo vuoi. Dammi la forza, una parte di quella che hai. Dimmi ciò che sai, raccontami una storia che non mi hai detto mai, con la quale mi addormenterai. Con te partirei per un viaggio senza ritorno, senza preoccuparmi di chi avrei intorno. Con te ogni giorno dura per sempre, c'è solo un ricordo e quello di te nella mia mente. Ed ora niente, non ha funzionato qualcosa, vorrei solamente non trovare mai la mia casa vuota. Ogni nota e ogni frase vola nell'aria, le prendo, le metto insieme, racconto una storia. La mia memoria non è molto buona perché ricorda le cose solo come le piace, ma cerco come cercano tutti di essere felice, cerco fino ad arrivare alla mia radice. Ora, ora, parliamo ancora un po', ed è come se fuori si fosse fermato il tempo. La vita è qui ora, adesso in questo momento. Sento l'odore del mare portato dal vento e canto tutto quanto quello che ho dentro. So che non sono io al centro della vita e tanto meno tento di apparire sicuro in questa salita. Libertà per averla, quanta fatica. Più che se lo vedo. Ci andiamo lontano dove nessuno ci vede, dove nessuno si chiede chi siamo e se abbiamo fede. Ognuno tanto in fondo crede in quel che vuole, nel gioco dei nomi e nel trucco delle parole. Mettila come vuoi, tradotto si chiama amore. È ciò che si cerca, ciò per cui si nasce e si muore. E questo sole che a volte illumina ma non riscalda, e ogni colore che crea mi rimanda in mezzo ai ricordi più belli col papà e la mamma. In gamba Nesli, vivila come ti senti. L'importante è dare sfogo ai propri sentimenti e accorgersi della bellezza di questi momenti. Lontano da tutti, lontano dai ripensamenti. Non menti Nesli, se urli tutto il tuo amore, se guardi la vita da un punto di vista migliore. Che bene fare quando il resto scompare e tutto quel darsi da fare non ha più valore. In gamba Nesli, vivila come ti senti. L'importante è dare sfogo ai propri sentimenti e accorgersi della bellezza di questi momenti. Lontano da tutti, lontano dai ripensamenti. Non menti Nesli, se urli tutto il tuo amore, se guardi la vita da un punto di vista migliore. Che te ne pare? Più che se lo vedo. Questo era Nesli, il fratellino del Fibra. Due nella pillole... sua massima tristezza. Sì, esatto. Vabbè, il disco tutto ti... Vabbè, due pillole al volo. Lui è Francesco Tarducci, il fratello del famosissimo Fabrizio Tarducci. E che cosa divertente, capito? E sai che hanno anche una sorella? No, questa è mancava. Tarducci. Sì. Tutti... Sì. Vabbè, niente, praticamente tralasciamo i gossip, poi ve ne parliamo. Che cosa ho scritto, robe strane. Nel 99 inizia col Fibra a rappare, esce il demo Fitte da Latte. Si fa conoscere come Nesli Rice, con uno stile simile a quello del fratello, ma con un flow e una metrica molto diversi. Neanche un metro di scrittura molto diverso rispetto a Fibra. Lavorano insieme a Uomini di Mare, insieme a DJ Lato, E arriviamo al suo debutto nel 2003 con Ego, disco che non tutti sanno, è prodotto da DJ Mike. Oh, cosa? DJ Mike? Sì, ha prodotto Ego di Nestle Rice, ragazzi. Un disco oltretutto che ha fatto clamore, diciamo, perché non utilizza sample questo disco. Questo disco è che è completamente suonato. Infatti hanno collaborato al disco un chitarrista, un pianista, un bassista. E se sentite il disco, il Quando fanno beat, queste cose è sempre ve ne rendete piacevole. conto, perché cioè, è roba assurda, cioè veramente. E niente, credo, poi ne parleremo meglio. Esatto, perché siamo un po' in ritardo e dobbiamo chiudere. Chiudiamo con un personaggio che in realtà non è molto famoso per Personaggio. la sua tristezza. Perché non è famoso per la sua tristezza? Non è famoso. Abbiamo cambiato personaggio. Ah sì, chiudiamo con lui. Scusate, sì, è che avevamo un altro pezzo in scaletta, invece, Sì, abbiamo ok. tolto un pezzo, Allora, abbiamo già fatto tardi, cioè se continuiamo è finito. chiudiamo con dei personaggi che non sono famosi per la loro tristezza, ma ci hanno fatto soffrire molto ultimamente perché hanno deciso di lasciarsi e fare il loro ultimo tour insieme malinconico e quindi sono tristi a prescindere in questo momento per noi. Stiamo parlando degli storici Stock and Mad Buddy, che conoscerete sicuramente perché hanno fatto la storia. Abbiamo deciso di passarvi quando tornerai, Quando un giorno tornerai. quando un giorno tornerai, sì. Che è il pezzo più triste probabilmente di Sì, entrambi. sì, sì. E soprattutto è un pezzo solista di Mad Buddy. Stock non rappa in questo pezzo. Però è uscito nel loro Erano disco. sempre insieme, Eh capito? sì, lo so, E sì. Questo invece hanno deciso di lasciarsi. Siamo nel 2005. viene da Block Notes, bla Sì. bla, non parleremo di Stock e Non Buddy per parleremo di un'altra tutto volta. questo, ma vi lasceremo con queste bellissime parole. Esatto, vi diciamo. Vi diciamo che ci sentiamo giovedì prossimo Sì, dai, perché torniamo. non Cioè, vi lasciamo più adesso. vediamo. E dai, un po' di Metti che ti positività. ammali di nuovo. Ciao, Beh, Rappusi. niente. Quando un giorno tornerai, Stock e Buddy, Block Notes Noi un giorno 2005. torneremo. Dai, però non rovinare le chiusure. Vabbè, raga, ciao.